Vai, vai, ci siamo. Ci siamo. Cosa diciamo? Niente, ci tenevamo a fare gli auguri di una buona e serena Pasqua a tutti i nostri tifosi da parte mia, di Alessandro Ciao ragazzi, tanti auguri di buona e Pasqua. di tutti i nostri compagni e lo staff della nazionale. Soprattutto Salvatore Sirico. Grazie. Ciao. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il traguardo è lì sotto, non è partito nessuno. Parte adesso il russo Kuznetsov. Vediamo se è la sparata giusta. Sì, il gruppo rientra, ma è lontanissimo. Attenzione a Kuznetsov, va dritto verso il traguardo. Dietro gli si mette in ruota Cancellara. Anche Sagan potrebbe uscire. Ora Sagan, vediamo se Cancellara reagisce. Peter Sagan va a vincere la prima corsa quest'anno in maglia di campione del mondo davanti a Sepp van Marke, mentre il gruppo lo regola in questo momento Arnaud Demare, che arriva quinto davanti a Fernando Gaviria. Pasquetta, siamo qui in diretta, spero fino alle 15, spero siate connessi anche voi, vi invito, 800 24 00 24, numero verde, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Abbiamo sentito l'arrivo della Ganve Velgem di ieri, vinta da Peter Sagan, ma la tragedia era già successa. Quando si dice destino bastardo, quando si dice che le stelle guardano da un'altra parte. Come sapete, la settimana scorsa ne abbiamo parlato a lungo e più volte. Le classiche del Belgio sono state in dubbio fino all'ultimo. Questa settimana santa, così viene chiamata in Belgio, appunto questa settimana che si chiuderà con il Giro delle Fiandre numero 100, è stata in dubbio fino all'ultimo, ovviamente per i fatti di Bruxelles. Poi si decide, ok, si corre, fantastico, sulla testa, e sfidiamo anche la paura e corriamo queste corse. Ecco la Ganve Velgem, 80 km poco più dalla fine, una moto della corsa travolge Antoine de Moitier, 25 anni, belga, appena arrivato nel ciclismo che conta. Si capisce subito che è grave, era caduto insieme ad altri corridori, la moto trasportava un giudice della corsa. Nella notte de Moitier è morto. Buongiorno Pier Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E io saluto di nuovo Cristian Salvato, che abbiamo sentito settimana scorsa, che è il presidente della Unione Corridori Professionisti Italiani. Ciao Cristian. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi è chiaro, comincio da Cristian, che si torni a parlare fatalmente di sicurezza delle corse, dei tanti veicoli, moto, macchine che ci sono all'interno della corsa. È intervenuto Bugno, è chiaro che si tratta di un discorso molto lungo e profondo, ma possiamo o dobbiamo dire che c'è un rischio insito nelle corse di bicicletta, che è pericoloso, che sono pericolose comunque le corse di bicicletta? Ma purtroppo sì, perché da tempo che ne stiamo discutendo, già l'anno scorso assieme al CPA, che è l'Associazione Mondiale dei Corridori. E già l'anno scorso sono successi fatti gravi, soprattutto in Belgio e in Spagna. In Belgio l'anno scorso ci ricordiamo che al Giro delle Fiandre una macchina del cambio ruote aveva investito un corridore là in maniera molto sciocca, non c'era nessun rischio, è stata proprio una disattenzione dell'autista. E poi ci ricordiamo l'anno scorso alla Vuelta di Spagna che ha investito prima Peter Sagan e poi il suo compagno di squadra Paulinho. È una cosa molto grave e poi l'abbiamo di nuovo fatta presente, perché a una corsa poco tempo fa in Belgio ha investito un corridore della Lotto, che ha riportato una frattura alla clavicola, e là avevamo denunciato nuovamente all'UCI. Infatti anche Gianni Bugno, sì, in occasione dell'ultima riunione con l'UCI avevamo denunciato questo discorso e avevamo detto che volevamo delle cose, delle regole più chiare, qualcosa di più ben definito per la sicurezza dei corridori. Insomma, ieri dopo la corsa ci siamo sentiti quei ragazzi che sono stati protagonisti della corsa, come Matteo Trentin e Manuel Quintato, e mi hanno ribadito il discorso di quanto sia così dedicata la situazione in gruppo e sia in questi ultimi anni si è peggiorata, soprattutto in Belgio. Sì. Sappiamo proprio per come sono le morfologie delle corse, come sono fatte per le strade strette, è difficile, anch'io quando correvo anni fa è sempre stato difficile, però in questi ultimi anni hanno denunciato questa situazione che si aggravava perché le moto proprio vanno a sfiorare i ragazzi e non solo le moto ma anche le macchine. Infatti purtroppo è successa la tragedia di questo ragazzo, e questa è la cosa più grave di tutte, ma speriamo appunto, purtroppo è arrivata la sua morte, ma non deve essere vana e dobbiamo fare qualcosa assolutamente per aumentare la sicurezza. Per aumentare la sicurezza, che comunque, ripeto, non voglio essere cinico, ma un rischio insito nelle gare ciclistiche. Guarda, io sto a Pier Augusto, sto guardando, ma giusto per caso, le immagini dell'incidente ad Alonso, dicono c'è stata rottura del sedile, un incidente pazzesco, la settimana scorsa. Non mi ricordo con chi ne parlavo, credo con Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, il quale diceva: queste macchine adesso sono sicurissime, è molto più pericoloso correre in bicicletta, fare una discesa in bicicletta, o sono molto più pericolose altre attività che normalmente non lo erano. Un rischio insito c'è, è chiaro che bisogna ragionare sulla sicurezza, però un rischio insito c'è di pericolo c'è nelle corse di bici. No, è chiaro, a dirlo addirittura sono stati piloti anche di MotoGP, che alcuni sono anche appassionati di ciclismo e più e più volte hanno manifestato da un lato ammirazione e dall'altro anche qualche domanda importante, dire: noi giriamo a 250 all'ora in un circuito che proviamo, riproviamo, impariamo a memoria, conosciamo ogni curva e ogni pendenza. I ciclisti fanno 200 km, 250 km di una gara e le strade cambiano da un secondo all'altro, e quando affrontano una discesa o senza magari anche i parapetti, certo, stanno assolutamente, non è che si corre in autostrada nel ciclismo, si corre su delle strade, si corre sulle strade molto diverse. Quello fa parte del ciclismo e forse anche tra virgolette un po' il bello, ed è un modo anche per poter apprezzare profondamente il gesto atletico di questi ragazzi. Però bisogna fare molto di più, come ha detto Cristian Salvato, molto di più a livello organizzativo. Devo dire che qui stiamo parlando di Belgio e Francia anche, perché negli ultimi anni sono successe cose veramente molto gravi. Potrei andare in ordine sparso: nel 2011 al Tour de France, quindi non dico una caretta, se vi ricordate, una macchina della televisione francese che portava travolse due corridori. Ricordo. Fleccia e Ogerland è andato a finire contro un filo spinato, non so quanti punti gli hanno dovuto applicare. L'anno scorso alla Parigi-Roubaix si sono dimenticati di attenzionare le sbarre del passaggio a livello e per poco un treno non travolgeva il gruppo che stava correndo appunto la Roubaix. Ci sono delle situazioni molto molto gravi, dovute anche al fatto che in modo particolare in Francia e in Belgio c'è una grande passione, nessuno dice che non ci sia grande passione, grande seguito, tutti vogliono i VIP o meno VIP, gli addetti ai lavori, i fotografi, i media di comunicazione vogliono stare nel vivo della corsa e creano dei grandissimi disagi. In Italia, per dire, prendo la Milano-Sanremo di sabato scorso, da anni, non da un giorno, da anni, molto prima che succedessero i problemi, per dire, sul Poggio si creano i fotografi, si mettono d'accordo, logicamente l'attenta cura da parte degli organizzatori, si mettono d'accordo e decidono che vanno su solo due moto con i fotografi e fanno il pool, il cosiddetto pool. Cosa vuol dire? Che se faccio la foto io, che per la mia agenzia, dopo quei 20, 25, 30 scatti che io ho fatto, li do a tutti gli altri fotografi che non hanno potuto salire sul podio. Ecco, ma una domanda... organizzare bisogna avere un briciolo di intelligenza. Ogni tanto possiamo dire che in questo caso gli italiani fanno scuola come sempre. Invece in Belgio e in Francia c'è questa gestione, che io adesso non voglio essere cattivo nei confronti dei belgi, però ho visto anche le situazioni che sono accadute con gli attentati di Bruxelles, la mancata gestione di uno stato di sicurezza all'interno degli aeroporti. Figuratevi cosa può succedere in una corsa ciclistica. Infatti ne stanno succedendo uno o due da almeno 4-5 anni e sono sempre protagoniste le moto e ne fanno di ogni. Ma una domanda secca, Mattia Cattaneo. Guarda, una domanda secca che voglio fare ad entrambi: ci sono troppi, in generale oggi ci sono troppi mezzi all'interno della corsa, troppe auto e troppe moto all'interno della corsa? Christian. Ma sicuramente ci sono delle foto abbastanza emblematiche della corsa di ieri e altre situazioni. Sicuramente bisogna cambiare, bisogna fare un qualcosa di diverso. Purtroppo, come sempre, è stata una tragedia che ci deve fare da scuola e bisogna sicuramente cambiare qualcosa. Quello che bisogna ricordare, infatti parlavo anche stamattina con dei ragazzi che insomma sull'onda dell'emozione di questa situazione, ma ricordiamoci che è una corsa di biciclette, come mi ha ricordato un ragazzo, parlavo con Filippo Pozzato questa mattina, cioè lui diceva vince il corridore più forte, cioè non è che deve essere protagonista l'ammiraglia o la moto per portare una borraccia, per portare una ruota. Dopo il ciclismo è fatto così, insomma, se ci ricordiamo anche tempo fa, negli anni, non voglio andare negli anni eroici, ma insomma il ciclismo, il ciclista deve essere il protagonista, deve vincere il più forte. Questo quasi protagonismo delle moto, delle macchine per essere davanti, per fare, cioè ci sono i modi e le situazioni per organizzare meglio questa situazione. Concordo al 100% con quello che ha detto Pierre. L'Italia tante volte noi ci un attimino ci mettiamo in secondo piano, ma cioè quello che voglio dire, ci facciamo sempre scuola su questo, e su questo credo che l'Italia deve essere presa ad esempio come fare il ciclismo e come organizzare le corse anche nel resto del mondo. Perfetto, grazie Christian, grazie. Grazie. Pier Augusto, ci sentiamo nel corso della Settimana Santa, in particolare con una Gambe Verghe numero 100 con un Giro delle Fiandre numero 100 di domenica prossima, che per mille ragioni abbiamo bisogno sia una grande corsa benedetta dalle stelle, no? Assolutamente sì, speriamo che sia uno spettacolo di sport, che sia un momento di così per gustarsi a tutti gli effetti una delle gare più belle che ci sono. Il ciclismo mondiale. Bisogna saperla gestire. Io spero che gli organizzatori belgi, che hanno una grande tradizione, poi riescano anche a dire dei no. Ecco, bisogna avere il coraggio anche di dire no, tu non puoi seguire la corsa, la possono seguire un numero limitato di persone. Certo. Per la sicurezza dei ragazzi, ma per la sicurezza anche degli spettatori, perché spesso e volentieri non se ne parla. Ci vanno anche di mezzo tanti bambini, voi non avete idea, perché una delle cose più belle del ciclismo è quello della borraccia che viene buttata a bordo strada per farla poi raccogliere i bimbi, e spesso non vengono visti, vengono travolti da ammiragli o da monaco. Queste cose non devono accadere, bisogna saper gestire degli spettacoli. Degli spettacoli che non dimentichiamo portano, sport, che portano sulle strade milioni di persone. Grazie Pier Augusto, alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Allora, 80024 0024 sta per arrivare Pardo anche nel giorno di Pasquetta, vi aspetto dopo il traffico. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Tutti convocati. Questo non è San Paolo, non è neanche uno stadio, ma è una chiesa dove un prete napoletano ha così riutilizzato, portandolo verso il sacro, l'ormai famoso coro che si canta a Napoli e in molti altri stadi. Ciao Pardo! Come va? Bene, com'è la Pasquetta? Bagnata? Bene, bene, sono in montagna, spero il telefono spegga. Gradi? Pochi. Fa abbastanza freddo, anche non è che sia freddatissimo, però insomma neanche c'era il sole prima, adesso c'è un po' di nebbia, Ma insomma, dai, ti lanci sulla grigliata, non c'è problema. Sì, già fatto. Noi lanciamoci su un paio di battute di Conte. Domani si gioca con la Germania, Monaco di Baviera, ci vedremo un nuovo tridente con Bernardeschi, Zaza e Insigne. Ma Conte è tornato per prima cosa su quelle ormai famose metafore che avevo usato. Non è che mi sia sentito dal dito, ecco, forse una parola abbastanza forte. L'unica cosa, ecco, che ho cercato di trasmettere anche attraverso metafore, che magari una è stata neanche interpretata, no? Perché quella del garage. No, prima ho parlato dell'incudine del mantello, che mi sento incudine, e poi quella che mi sentivo in un garage era nel senso di sentirmi poco utilizzato, quindi di sentirmi poco utilizzato in virtù anche di promesse che mi erano state fatte. Si veniva da un fallimento mondiale, c'era un movimento calcistico da far ripartire, quindi mi è stato detto che è stata scelta la persona giusta che possa fare da traino a questo movimento, quindi mi è stato promesso disponibilità, mi è stato promesso lavoro, cosa che poi alla fine non è avvenuta. Questa è un po' la metafora, la vera metafora. Ma Conte ha anche aggiunto, c'è qualcuno che mi vuole far passare per qualcuno che ha poco rispetto. Ho visto che qualcuno ci ha giocato per creare polemica o per farmi passare anche per una persona che ha poco rispetto. Io posso dire a queste persone che hanno pensato a questo che io chiedo sempre educazione e rispetto nei rapporti, perché penso di dare sempre educazione e rispetto, quindi se qualcuno ha pensato, mi auguro l'abbia fatto in buona fede e non in mala fede, ecco. Così Antonio Conte, se volete commentare 800 24 00 24, numero verde, siamo qui in diretta, 349 238 6666, per messaggi e WhatsApp. Io già mi immagino Pierluigi in tempo di campionato europeo, sarà 1-2 polemiche al giorno. Sì, ma insomma io però insomma sarò un po' cercata Conte, io non sono sorpreso da queste sue dichiarazioni, sono convintissimo della buona fede e conoscendolo un po' io non mi ero sentito, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, minimamente offeso dalle sue dichiarazioni, però che quelle potessero essere delle metafore facilmente travisabili ci sta, non c'è particolare malafede, poi è ovvio che tutti i giorni, soprattutto la carta stampata, anche noi in radio, anche se noi poi delle polemiche ce ne possiamo anche abbastanza fregare, nel senso che noi tanto cazzeggiamo, quindi non è che abbiamo bisogno della notizia ogni minuto. No, assolutamente. Però voglio dirti, però è divertente anche sentirla, che ne pensa la gente. Cerchino dentro a qualcosa, anche un po' per deformazione professionale, mi ci metto anch'io, qualcosa che possa far polemica o che possa far discutere, polemica è una parola brutta, ma discutere, questo ci sta, quindi insomma da un esperto come Conte, io ho detto, se fosse stato il suo consulente di comunicazione non gli avrei consigliato di dire quelle cose, premesso che secondo me la buona fede di Conte è indiscutibile e oggi ha ulteriormente chiarito quella che è la pura verità, cioè lui è stato chiamato in un'estate calda, complicata, dopo quel problema lì con la Juve e dopo che la Nazionale aveva i suoi problemi, Tavecchio aveva i suoi problemi, come la figura più credibile per far ripartire un movimento calcistico, e ad oggi possiamo dire anche che ha fatto bene, sì. Poi chiaramente sai, la vita del commissario tecnico dipende da 4-5 certo. partite. Dipende, poi la valutazione di come di quello che ha fatto Conte, il voto a Conte non possiamo che darlo all'europeo. No, cioè, lo daremo qui alla fine dell'europeo, esatto. Però lui è sicuramente un grande allenatore, sicuramente non si è tuffato in questa avventura con tutta la professionalità del caso, da prima della chiamata di 2 anni fa sicuramente era intrigato dall'idea di avere una panchina e magari un'esperienza all'estero, soprattutto in Inghilterra, per cui non ci vedo niente di clamoroso, non c'è nulla che mi sorprenda di questa vicenda, però è chiaro che quel paio di metafore lì è ovvio che insomma, è troppo esperto per non capire o per sorprendersi che poi qualcuno le strumentalizzi o ci faccia che poi ci ricami sopra, questo è chiaro. Certo. Intanto domani si gioca con la Germania, una Germania che ha perso 3-2 dall'Inghilterra, torniamo a Monaco di Baviera, ovviamente c'è anche qualcuno che in quello stadio ha vissuto un piccolo dramma sportivo 10 giorni fa, che voglia prendersi una rivincita, ad esempio Zazza. Una piccola rivincita, noi abbiamo giocato contro il Bayern Monaco ed era una partita di Champions League, però ovviamente vogliamo andare a Monaco per vincere. Un altro che era in campo a Monaco di Baviera è Gigi Buffon, che sottolinea innanzitutto l'importanza di un giocatore che domani partirà dal primo minuto, finalmente, e non se ne può fare a meno, e che si chiama Lorenzo Insigne. Lorenzo, per le qualità che ha, è uno che può essere veramente il giocatore o uno dei giocatori che ci può far fare la differenza. In una nazionale come la nostra, che sta crescendo, ha bisogno secondo me proprio di lavorare in campo, e proprio per questo secondo me un allenatore aiuterebbe molto anche il singolo ragazzo a crescere. Quindi hai sentito, Pierluigi, Buffon, che può essere considerato il grillo parlante non solo della Juventus ma anche di questa nazionale, il grande guru sul campo di questa nazionale, dice se Insigne non si discute, perché è quello che può farci fare il salto di qualità. Poi anche sul tema allenatore abbiamo discusso, ti ricordi, anche con Marocchi, un CT, uno dal percorso federale oppure un allenatore vero, eccetera. Buffon non ha tanti dubbi, serve uno, un allenatore vero che costruisca la squadra. Tra l'altro mi pare sia proposto Guidolin, abbiamo alzato la propria candidatura, sì. Guidolin, che non rinnoverà con lo Swansea. Guarda, io Guidolin è un bel profilo sicuramente, io credo che... molto modestamente sono d'accordo con quello che dice Buffon, l'ho detto anche nei giorni scorsi, serve un allenatore, secondo me il tempo del percorso federale, del percorso parallelo, quasi come fosse un ministero, la federazione è finito. Anche poi è ovvio che noi veniamo da un'esperienza, quella di Conte, nella quale legittimamente un po' di insofferenza per un allenatore che è in rampa di lancio, che ancora ha davanti a sé sfide a livello di club clamorose, enormi, beh, questo magari possiamo risparmiarcelo, per cui serve uno che abbracci la nazionale con come se fosse il lavoro più bello del mondo, anche certo, perché comunque certo. Rappresentare 60 milioni di italiani, ma come se fosse il coronamento di una carriera che si è già compiuta. Certo, io l'altro giorno ho detto serve un allenatore risolto, che si è risolto, certo. Da questo punto di vista, no, cioè che non alleni la nazionale pensando al Manchester United, al Chelsea o al Bayern Monaco. E detto questo, serve secondo me un buon allenatore, cioè da questo punto di vista Conte era la migliore scelta possibile che potevamo prendere, e chi arriverà, se sarà Donadoni, se sarà Guidolin, se sarà Capello, insomma, dovrà comunque essere un allenatore che vuole fare questa cosa, che veramente considera questa esperienza come un'esperienza vera e importante. Però ecco, il tempo del selezionatore, dell'uomo che vive dentro a Coverciano, che non ha vissuto l'adrenalina di certe partite, di certe situazioni, mi sembra un'epoca perché oggi comunque sono quelli, gli allenatori dominanti sono quelli. Poi è ovvio che i club oggi hanno un potere rispetto alle nazionali nettamente superiore, sia economico che di valutazione, sì. Di gestione. Poi, cioè, poi tra allenare, abbiamo... allenare il Manchester United e allenare la nazionale francese, inglese, tedesca o italiana, non hai dubbi. Se sei un allenatore giovane che si sta costruendo una carriera, come è il caso di Conte, o comunque nel pieno della carriera, come ad esempio oppure nel caso di Mourinho o Ancelotti, la carriera l'ha fatta, che... e allora ci vai volentieri, certo. come coronamento della carriera. Capello, quante volte ha detto, quando ancora allenavi club, il mio sogno ultimo è quello di allenare la nazionale inglese. Alla fine ci è andata non benissimo, poi è passata quella russa, è andata ancora peggio, però era quello il senso del discorso di Capello. In epoca di candidature vale tutto, cioè, poi andiamo, ci fermiamo un attimo e torneremo subito dopo. 800 24 00 24, ricordo il numero verde. Sentiamo anche Giaccherini, che ricandida il suo attuale allenatore, Roberto Donadoni. Donadoni potrebbe essere come posso dire, l'allenatore che potrebbe sicuramente far comodo alla nazionale, quello sicuro. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Si ricomincia! Convocati. Aveva appena 16 anni e Boskov lo fece esordire a Brescia, 28 marzo del 1993. La Roma stava vincendo per 2-0, gol di Caniggia e Mihailovic. Accanto a Francesco sedeva Muzzi, un altro romano, l'idolo Giannini in campo. Io stavo giocando il sabato con la Primavera, ricordo Roma-Ascoli, feci due gol al primo tempo e poi Spinosi mi fece uscire e partivo con la prima squadra per Brescia. Non immaginavo niente, sinceramente, perché già essere partiti con la prima squadra era una soddisfazione, era una cosa che difficilmente dimenticherò. Il giorno dopo, la domenica, quando mi ha detto entra, riscaldati, che entri subito. Ero in panchina vicino a Muzzi, pensavo che ce l'avesse con lui. Invece poi Roberto mi disse guarda, ce l'ha con te, entra. Sono entrato, nemmeno ho fatto il riscaldamento 10 secondi, anche perché era quasi finita, partiva, mancavano 5 minuti. Mentre sono entrato e ero troppo emozionato e troppo contento. Ardo ricorrenza, 23 anni di Serie A con Francesco Totti, tanta roba, eh? Tanta roba, sì, no, 23 anni. Ma una delle cose più impressionanti della carriera di Totti sta proprio nella longevità, nel senso che poi è stata una carriera fino a pochi mesi fa clamorosamente forte, clamorosa, incredibile dal punto di vista proprio della durata, di quanto. Perché c'è stato un Totti fortissimo degli anni della giovinezza, c'è stato un Totti altrettanto forte gli anni della maturità, no? Sicuro. Ed è il motivo per il quale in questo momento credo che tutti gli appassionati di calcio comunque siano un po' così, un po' dispiaciuti, perché vorrebbero evitare un finale di partita malinconico. Ma succede con tutti i grandi sportivi, no? Entrano a far parte della nostra vita in qualche modo. Paradossalmente, se Totti avesse avuto un calo un pochino più naturale, un pochino più fisiologico qualche anno prima, probabilmente oggi non vivremmo questa cosa qui, questa polemicuccia qui la viviamo proprio perché Totti ha fatto delle cose fino a pochi mesi fa veramente incredibili, sicuramente con un dinamismo che è diminuito, però è ancora un giocatore in grado di trovare la giocata, quindi l'anomalia della longevità della carriera di adesso questo momento un po' di frizione, io però penso alla fine in qualche modo si risolverà, perché faccio fatica a immaginare un brutto uno strappo tra Totti e la Roma è inimmaginabile, sono sicuro, sono convinto anch'io. Buttiamo lì un altro argomento, spunto di discussione, perché da noi ci sono le amichevoli, ma in Sud America si gioca per i mondiali. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi. Messi ancora, Messi. Il colpo di mezza girata di mercato che fa 2-1 per l'Argentina. Boa. Alza il pallone bene. Per Mena, il tocco morbido di Angel Mena. Pareggia l'Ecuador. 2-2. Si necesita reggaeton, dale. Guerrero! Torna in partita al Perù con l'errore di Barroca. Torna in partita. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. L'apertura in mezzo, attenzione a Cardona che va alla conclusione. Cardona in vantaggio la Colombia al 92esimo. Splendida azione di Marlos Moreno, il nuovo gioiello del calcio colombiano. Si inventa l'azione che vale i 3 punti alla Colombia. Álvaro Pereira taglia davanti Suarez, l'ha visto Álvaro Pereira. Suarez! Eccolo! Il pistolero è tornato per colpire. 2-2. Il pistolero! Guarda, parliamo di Sud America e qualificazione mondiale sudamericana, e giuro, anche a Milano è uscito un raggio di sole, uno. Non esageriamo, però è successo. Saluto e ringrazio Leonardo Bertozzi che lavora per ESPN dal Sud America. Ciao e grazie. Ciao amici, un piacere essere convocato da voi. Qui in Brasile a San Paolo 9:37 del mattino. 9.37 del mattino, ben svegliato, e grazie per la pazienza. Senti, domani Colombia, Ecuador, Uruguay, Perù, Argentina, Bolivia, poi c'è Paraguay, Brasile. L'Ecuador a sorpresa davanti a tutti, è un po' come il Leicester in Inghilterra, mi pare. Adesso stiamo aspettando, speriamo che il Leicester rimanga lì, però ci aspettiamo che l'Ecuador prima o poi venga risucchiato da Brasile, Argentina, Uruguay, l'Uruguay del pistolero, eccetera. Sì, però anche se è risucchiato, anche se non rimane primo, da loro se si rimane ai quarti va benissimo, no? Quello che vogliono è stare ai mondiali, e se pensiamo che adesso hanno 13 punti in 5 partite, poi se fanno altri 13 arrivano a 26, sono già punti belli per qualificarsi, dunque è già un inizio forte. Se pensiamo oggi alle qualificazioni sudamericane in termini di competizioni nazionali, poche sono così equilibrate, no? Se pensiamo che l'Ecuador si qualifica tra Brasile, Argentina, Uruguay, Colombia, Cile, sicuramente fuori. Sì. Dunque è questo l'ambiente in Sud America. Per avere un'idea, questa ultima giornata, la settimana scorsa, nessuno ha vinto in casa. Sì, sì. L'Argentina ha vinto in Cile. Segnato, mm-hmm. E nessuno ha vinto in casa. Anche il Brasile ha pareggiato con l'Uruguay dopo aver fatto 2-0. È già un'area di crisi, c'è in Brasile. Sì, sì. No, sono crudelissime e meravigliose, parlo delle qualificazioni sudamericane. Sì, sono molto belle, molto equilibrate, anche perché poi spesso le nazioni hanno qualcosa di più dal punto di vista tecnico, però magari tante volte le abbiamo viste faticare perché magari hanno più giocatori distratti durante l'anno dai club, mentre appunto paesi emergenti come l'Ecuador nel momento in cui beccano una striscia di risultati utili poi insomma vivono per quello e quindi riescono a portare a casa un buon risultato. Sicuramente l'obiettivo è qualificarsi, non è tenere il primo posto. Sorprendente, molto equilibrato, il calcio sudamericano è un calcio bellissimo, un calcio che a livello di club secondo me negli ultimi anni ha sicuramente, e forse anche a livello nazionale, sicuramente ha fatto qualcosa rispetto al calcio europeo, però quando si giocano le qualificazioni è sempre molto divertente, anche perché ripeto, poi ti aspetteresti Argentina, Brasile, Uruguay a dominare sempre, invece non è così. No, ma anche la Colombia ad esempio o il anche Cile, certo. E giustamente certo. Leonardo ci diceva che sono numeri, una tra Uruguay, Rischia, Brasile, certo. Argentina, Colombia e Cile, non andrà ai mondiali, mi sembra tanta roba questo. Il Brasile mi sembra che continui ad avere dei problemi, questo è un punto. Poi mi domando come sia possibile che una squadra con il pacchetto offensivo che è l'Argentina non vinca comunque tutte le partite, Leonardo. Eh sì, hanno problemi anche loro in difesa, Brasile e Argentina. Guarda, in questo momento Dunga non è che sia la figura più popolare in Brasile, è tutto il contrario. E poi in questa partita con l'Uruguay si è arrivato a una conclusione che David Luiz forse è troppo scarso tatticamente per giocare per la nazionale. È andato male nei due gol di Uruguay, nel gol di Cavani, nel gol di Suarez. E poi c'è tanta polemica perché dopo i mondiali è tornato Dunga e un difensore come Thiago Silva, che secondo me non può rimanere fuori di nessuna nazionale, non viene convocato perché era considerato troppo emozionalmente disperso ai mondiali, aveva pianto i rigori contro il Cile, poi nella Coppa America ha commesso un rigore un po' infantile, però se pensiamo a David Luiz che ai mondiali c'era sul 7-1 e ha fatto una partita disastrosa, dunque non doveva tornare nessuno, è una cosa che si discute, per domani è squalificato David Luiz, però è squalificato anche Neymar, e col Paraguay fuori casa il Brasile normalmente non riesce a vincere. Nelle due ultime Coppe America è stato eliminato dall'Uruguay, e poi dopo la Coppa America il Brasile gioca fuori casa con l'Ecuador e in casa con la Colombia, quindi questa cosa del Brasile sempre ai mondiali qui è già una cosa che preoccupa un po'. L'Argentina vede un po' più di Messi in questi momenti, non ha segnato col Cile, però ha giocato bene, ha fatto una buona partita. Ma si deve capire anche che il Cile non aveva figure importanti del titolo della Coppa America, non aveva Vidal, Valdivia, Eduardo Vargas, che erano tutti fuori o squalificati o infortunati, quindi buoni punti questi per l'Argentina al Cile, perché non saranno tutti che vinceranno lì. Però domani l'Argentina ha l'obbligo di vincere con la Bolivia in casa, questo è sicuro, non credo che non vinca, anche l'Uruguay col Perù. e per questo è fondamentale per il Brasile non perdere per il Paraguay, che se no saranno 5 mesi fuori dalla zona di qualificazione, perché si torna a giocare solo ad agosto dopo la Coppa America. E quindi te li immagini 5 mesi così. Grazie Leonardo, grazie, buon lavoro, buon lavoro. Prego amici, buona giornata. Ciao, ciao Leonardo Bertozzi da Sud America, da San Paolo. Ma te li immagini un mondiale senza Brasile? Io no, Piero. No, non me lo immagino perché non c'è mai stato, però insomma il Brasile, vabbè, io ero lì a Belo Horizonte, quindi insomma ho immagine di quello che è accaduto, che è casuale fino a un certo punto, nel senso che 7-1 sicuramente questo è stato eccessivo, però il Brasile è una squadra che ha tanti problemi, è una squadra che ha talento ma non ha, com'era quella roba, la potenza è nulla senza il controllo, è un po' quello, insomma, ha sicuramente grandi talenti, su tutti è Neymar, però non ha una telaiatura di squadra poi così competitiva e un ordine tattico europeo. Poi lasciare fuori, onestamente, lasciare fuori Thiago Silva perché è emotivo mi sembra tanta roba. No, ma quello fa ridere, a parte che in quella partita lì, vabbè, adesso c'è il riferimento alla Brasile-Cile, ma in Brasile-Germania vengono tutti. Era veramente una nazionale dei piagnoni, come diciamo noi a Roma. David Luiz, il mio amico David Luiz, è uno che insomma ha fatto certi pianti clamorosi, no? Il problema era veramente la mancanza, secondo me, di ordine tattico, di disciplina, le grandi pressioni che c'erano. Per quanto riguarda l'Argentina rimane un po' il mistero, perché è una, se facciamo la somma del talento offensivo di questa squadra, penso che no, cioè, ci sono 40 commissari tecnici che lemosinerebbero un Dybala, no, un Higuain, una riserva, uno di quelli che sta a casa, uno di quelli che sta a casa, uno di quelli che non viene neanche convocato. Quindi, bravo. Però sappiamo che poi in campo vanno in 11 e le squadre migliori sono le squadre che riescono ad avere un equilibrio tattico tra le varie parti. E l'Argentina, da questo punto di vista, davanti ovviamente è mostruosa, dietro una squadra già molto più normale. Chiaro, quindi insomma, poi la verità è che le competizioni nazionali, essendo tutte competizioni che non si basano sul girone, sull'andata e ritorno, ma sulle coppe, sulla sudden death, no, diventano aleatori, e la differenza, cioè, spesso la fa l'attacco. La Grecia ha vinto un europeo, ve lo ricordo, nel 2004, non era la squadra migliore d'Europa, anche se giocò delle partite pazzesche, quindi c'è anche una componente di un po' di casualità. Sicuro, sicuro. Grazie Pier, buona Pasquetta, ci sentiamo domani, alle 2. Allora, io ho ascoltatori che saluto, qui faccio gli auguri, Gianni, Giuseppe, Bruno. Sentiamo Gianni da Pesaro prima del traffico, ragazzi. Gianni, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolti, se mi consente un paio di cosine. Sì, certo. Intanto speriamo che la nazionale faccia bene. L'uscita di Conte è stata poco felice, però va bene questo. Poi una cosa, vorrei parlare un attimino della mia Juventus. Io sono un tifoso della Juventus, spiegato. Sì. Non da ammazzarmi, ecco. Insomma. Sì, ecco, però, come è normale che sia. Il mio cuore è bianco-nero. Però perché quando succede un caso in una partita a favore della Juventus se ne parla per mesi, settimane, anni, due anni, succedono agli altri, tutti zitti, non parla nessuno, in cui qualche suo collega di cuori dice, tanto per cominciare, è uno di quelli che nell'andata a Roma 2-1 a favore della Roma disse, finita la partita, vedrete cosa succederà a Torino al ritorno e per i bimberi, e non è successo niente. Poi un'altra cosa, il fatto che il prete a Napoli canti quella canzone, vorrei fargli ricordare anche i napoletani che ne hanno presa presto, agli amici napoletani, che quella canzone l'ha fatta un tifoso della Juventus, sì, e poi loro se ne siano appropriati. Ne abbiamo già parlato, la paternità, ecco, di quella. Allora, non è che lui, guardi, la canta Gianni, in chiesa. Non, per, sì, la, per la precisione, se vogliamo proprio essere precisi, esce dalla tifoseria dell'Aquila quella canzone. Poi ha fatto il giro di tutti gli stadi, ma non è questione di rivendicare la paternità di quel motivetto, di quel ritornello. Non c'è copyright, quindi si può cantare serenamente in tutti gli stadi e magari anche in luoghi, come abbiamo sentito, meno avvezzi a cori di quel tipo. Grazie. Quanto alla domanda sulla Juventus, gli arbitri, eccetera, è una domanda direi pleonastica, insomma la risposta la conosciamo tutti e la conosce anche il nostro ascoltatore. Traffico. Tutti convocati. Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta Tutti convocati. Oggi mezz'ora di sconto perché è Pasquetta, quindi insieme fino alle 15, o meglio 14.56 mi segnalano dalla regia. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi, volevo parlare un po' di... Io ho visto qui a Verona due volte un giro per il campionato del mondo di ciclismo. Sì. Io ero uno degli spettatori, a parte mi interessa perché faccio anche ciclismo amatoriale, me ne sono una persona grande già. Sì. Io ho visto questo, c'era un sacco di macchine dentro il circuito, molti motorini dentro il circuito attaccati ai ciclisti. Io mi sono detto, ma come fanno questi ciclisti con tutto lo smog che c'è lì dentro in questa corsa? Ma a parte era pericoloso, perché Verona è una città che ha delle strade molto piccole e angoste e corte. Sì. Ma io mi sono domandato, ma la gente, quelli che organizzano questo percorso, non si rendono conto del pericolo che c'è per i ciclisti e per la gente che va a vederlo? No, si rendono conto e soprattutto ci si trova a riflettere su questi argomenti quando succedono delle tragedie come quella di ieri. Lo dicevamo prima, normalmente il ciclismo non si corre sulle autostrade, il ciclismo si corre su strade strette, scomode, qualche volta storiche, come sono i muri del Belgio. Ed è chiaro che per ragioni di media, vuoi per l'assistenza ai corridori, per tutte queste ragioni si è moltiplicato il numero dei corridori, si è moltiplicato anche il numero dei mezzi che stanno in mezzo alla corsa. Serve una patente particolare per guidare lì in mezzo, bisogna essere capaci, e non è certamente una cosa semplice, anzi è una cosa di estrema difficoltà. Una certa percentuale di rischio è insita comunque nella velocità delle corse, nella pericolosità appunto degli stessi tracciati. È chiaro che non si può arrivare a situazioni come quella che abbiamo vissuto alla Gambe Velge, e oggi ci troviamo qui a piangere appunto la morte di un corridore. Non so se e quanto possa alla fine, a cosa possa portare questa tragedia. Certamente oggi è il giorno delle grandi paure, delle grandi discussioni, e non dobbiamo dimenticare che domenica si correrà in un Belgio già ferito da altre ragioni, una delle classiche storiche che porta 2 milioni di persone sulle strade. Il Giro delle Fiandre si correrà con il cuore, credo, un po' pesante. Saluto e ringrazio Mario Boni. Ciao Mario, come stai? Bene, ciao Carletto, buona Pasqua a tutti, un giorno di ritardo. Buona Pasqua e buona Pasquetta. Senti, il calcio fermo per ragioni di nazionale si è giocato nel basket, con Milano che ha consolidato il suo primato vincendo a fatica, Beh, Reggio Emilia resta una grande squadra, però io ho visto la partita di Eurocup l'altro giorno con Trento e mi domando come Milano possa giocare un quarto di finale di un Eurocup che vincendola ti porterebbe comunque, il parterre delle squadre rimaste non mi sembra clamoroso. È assurdo che una squadra come Milano giochi in quella maniera una partita che in questo momento della stagione dovrebbe essere la più importante. Guarda, ho guardato anch'io quella partita e non posso che condividere le tue parole. Contro Trento dobbiamo fare i complimenti a Trento, però Milano l'approccio alla partita è troppo nervoso. Quelle partite, io ricordo una partita quando abbiamo vinto noi la Korac in Turchia, avevamo perso in casa di 11. L'approccio alla partita deve essere tranquillo, cioè hai 4 tempi per recuperare 3 punti alla volta. E invece Milano mi ha dato l'impressione che volesse recuperare tutto troppo in fretta, molto nervosismo, e poi insomma complimenti a Trento che ha trovato una giornata straordinaria al tiro con un Peppe Poeta veramente decisivo. Sì, intanto c'è Cremona che per la prima volta nella sua storia va ai playoff, Mario. Un'altra grande storia di questo basket di quest'anno, anche dell'anno scorso, le squadre che non ti aspetti mai. Cremona, dell'ottimo Cesare Pancotto e di Andrea Conti come direttore sportivo, ha fatto una squadra che tutti noi sottovalutavamo, invece stagione strepitosa, direi, oltre a trovare le final di Coppa Italia, playoff, e quindi Cremona direi nell'elite della pallacanestro. Non è così scontato invece che ai playoff ci vadano gli attuali campioni d'Italia, ma è stata una stagione surreale quella di Sassi, incredibile, surreale partita con, ovviamente, con Meo Sacchetti, autore del triplete, poi esonerato, poi Calvani e poi addirittura vediamo Pasquini che era direttore sportivo che va in panchina. Io dico, magari con un po' di cattiveria, come rovinare una storia meravigliosa. Sai, bisogna dire che insomma la storia di Sassari l'anno scorso, il triplete, ha vinto tutto, ha cambiato tanto, perché non ha più Shane Wallaval, non ha più Sanderson, non ha più... Ma questa è la logica delle cose. Però cambiare così tanti giocatori di ottimo livello non era facile. Ha preso dei buoni giocatori non al livello di quelli che c'erano, e poi un po' di confusione, un po' di nervosismo. Sapevamo che la storia tra Sacchetti e Sardara non era più solida, sapevamo che c'erano già dei problemi. C'è stato un cambio e poi subentra un po', come dire, da parte dei giocatori la consapevolezza di non poter ripetere la grande impresa, e quindi si lascia un po' andare. Sì. Quello che è successo a Nassas. Un'altra Venezia che esonera l'allenatore. Il grande Charlie. Il grande Charlie di mille vittorie con la nazionale. Sì, ma Carlo, ti rendi conto che quest'anno, lo sport è bello per quello, no? Pensi che tutto sia scritto, poi invece non è nulla di scritto, perché pensavamo che Venezia facesse una grande stagione, addirittura pronta per lo scudetto, Sassari pronta a ripetersi, invece nuove realtà si consolidano come Reggio Emilia e altre come per esempio Cremona arrivano a ribalta. C'è Avellino che ha fatto 12 vittorie in fila, straordinario Avellino, che bisogna dare anche vuol dire brava la società avellinese a prendere dei giocatori come Joe Reglan, che ha cambiato completamente il modo di stare in campo, e grande stagione Riccardo Cervi sta facendo una grande stagione, e poi un giocatore che a me piace particolarmente, Ivan Buva, un giocatore che è secondo me sottovalutato, che ha grandi straordinarie qualità, come per esempio giocare a canestro come pochi, spalle a canestro come pochi altri riescono a fare. Mario, ti ringrazio di nuovo, buona Pasquetta, ti saluto il tuo giocatore preferito, Condombia. Speriamo che dia una botta alle sue statistiche, via, diciamo così, speriamo di dire così, via. Grazie Mario. Grazie a voi tutti, a presto. Ciao. Grazie Mario Boni, noi ci fermiamo qui per santificare anche noi la Pasquetta, oggi mezz'ora di sconto come detto, ma non è sempre Domenico Pasquetta, domani torniamo con Radio Pieno dalle 14 alle 15.30 con Pardo, con molti ospiti e con tutti i temi, compreso Nadal, che si è sentito male a Miami. Nadal, il superman del tennis. Condizioni climatiche difficili, 30 gradi, 80% di umidità, si è sentito poco bene, si è ritirato dal torneo e poi ha detto no, il tennis è uno sport troppo faticoso, troppo fisico, bisogna cambiare le regole. Questo l'ha detto Rafa Nadal. Ragazzi, ci sentiamo domani. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Di nuovo auguri a tutti. Signori, alla prossima!